sì, no, hai capito, con quel cavolo di altri, ne ho avuto proprio Emilio con Giuseppe, sì. Quando l'ha presa, sulla nulla era. E come hai risolto? Sì, ho risolto, ho voluto mettere una vite, perché se no se scendeva giù questa storia. Capito, andava in casino, c'era la stazione a Marettone e non c'era verso. Vabbè. Per curiosità, quanto ti prendi per piazzare un'antenna di baracchino? Quanto prendo io? Che antenna devi piazzare però? Ho capito, Ringo. Che antenna devi piazzare? La Ringo, se io dovessi, perché ancora non ho il capo, piazzare la Ringo con 6 metri di palo, che il vecchio, se va bene, usiamo il vecchio, quanto vuoi? Poi passare il cavo giù, mettere le fascette passacavo, no fascette, come si chiama? Quello col chiudino per bloccare il cavo al muro. Ascolta, ma ce l'hai un chilo di bistecca e un po' di birra? Ci facciamo la cena, te la pigli in culo, tu e l'antenna. Beh, però sai, Antone, io penso sempre che il lavoro vada pagato in soldi, poi i soldi ne fai quello che vuoi. Tu, fregate, ti ho detto, ce l'hai le bistecche e facciamo la cena. Vai, solamente quello e basta, non arrivo una cazzata a piazzarla. E va a far culo a te. Non c'è problema. Me lo dici, quando vuoi, se vengo te la piazzo. A tutti i dì. D'altro, sai perché? Io temo un po' le altezze. Ah, quando salgo sulla scala, basta una scala da... una scala da 8 gradini, da 6-8 gradini, che non mi sento sicuro. Poi comunque non so varie cose. Allora, il palo da 6 metri c'è dal 92. Io non so se si riuscirà con lo svitol ad abbassare gli elementi uno a uno, primo. Poi non so se si potranno svitare, sempre con lo svitol, le viti delle zanche in modo da mettere giù il palo. Se si riesce, metà del lavoro è già fatto, capito? Devo riuscire a capire se si può buttare giù il palo, smontarlo e staccarlo dalle zanche. Allora te lo dico subito, non puoi fare troppo accidente, perché quando c'è il palo telescopico e passano un po' di anni, l'unica cosa per poterlo farlo scendere giù è tagliare tutto con la mola, ma è tutto. Il palo e dove c'è addirittura il pezzettino della vita che entra all'interno. La lì e poi il palo scende giù. L'unica cosa che puoi mettere al limite per poter recuperare il palo, quando lo recuperi, è una di quelle zanche a ringhiera, una da parte e una dall'altra, sia sopra sia sotto. E recuperi il palo e lo blocchi così, come ho fatto una volta. Addirittura tagliare con la mola, è una rogna, chi ce l'ha la mola? E poi dove la attacchiamo? Vabbè, quello di sotto ci dà il cavo lungo magari, cioè ci dà la possibilità di attaccare, perché se non è utilizzabile costa poco, e poi il palo da 6 metri costa, quanto è, 15 euro mi pare, 15-20 euro, nuovo, di incatto. E il palo da piano la cosa, da bricco, ma ce ne sono di pari, non costa neanche molto, glielo sai. La Ringo è leggera, mi figurati tu, ce la sali da solo, ce la sali, capito? Solo che è allucinante, perché se penso sul gabbiotto, sul gabbiotto centrale, 6 metri di palo più 4 metri e mezzo di antenna, mi sembra una cosa allucinante, lo sai, ho paura anche che prenda troppo vento ogni in alto. Sì, Antonio, dopo 12 anni il palo ho smollato il bullone, è sceso. Beato te, prova a mollare quel bullone invece che vende Fusaro. Domani si scendono questi. Ma da me se manco c'è decine, nulla. Mi chiede la Fabrizio, abbiamo fatto insieme. Smollato e sceso subito. Buono. Il mio c'è dal 92, quindi figurati, 2002, 2012, 20 anni di palo. Cosa fai? Ci metti un po' di CRC o svitol, come lo vuoi chiamare, ci metti un po' di quello, prima lo fai un po' prendere, in modo che... e poi vedrai che già ne esci tranquillamente. sapete cosa c'è in punta a quel palo? C'è il cadavere della, come si chiama? Della, come cacchio si chiama? Quella antenna da balcone, della boomerang, quella da 2,75, ce n'è rimasta la metà e senza radiale pure. Fatelo conto, lo scherzo. E via, io dico che appena la tocchi si fa in polvere. Ma cioè se smuovi il burro si taglia all'interno, quindi cioè se c'è il pezzo di sopra, quindi ma il lato all'interno. Quindi la faccia con la mola devi farlo. Vabbè, speriamo di no perché è già una seccatura maggiore. Vabbè, d'altronde cosa si può fare per non far bloccare i bulloni? Prenderli acciaio inox, ecco, quello non è male. Acciaio inox sì, andrebbero bene, però il problema è che dove abiti è inferno, quindi si ossida. Ciao Sandro. La vasellina ci vuole. Sì, lo stavo per dire. Avanti il nuovo entrato. Sì, la vasolina non è male, solo che poi col caldo, al primo caldo scende tutto, si scioglie. Ci vorrebbe qualcosa che protegga il metallo. Come si chiama quella pasta che si mette per conservare bene? Cos'era? Al solfuro di molibdeno, chi se lo ricorda? No, io uso quel grasso a silicio. Sì, allora è quello già. E non mi ricordavo il termine tecnico. C'è qualcuno che si sta chiamando in FM che sta facendo un bel basso. Chi è? Io sono. No, se tu Sandro, c'è qualcuno più basso avanti. Ma è Sandro. È vero, c'è uno sul fondo. Boh, però me ne M perché lo sentiamo, va. Infatti è in AM. Ah, avanti che vorrei entrare in AM, avanti. Allora, buonasera a tutti, ho già la salutata da fermo, vi saluto qua, buonasera. Ciao, mi hai sentito. C'è Sandro, poi c'è l'altro più basso, che è? Ma è diventato già Sandro. Ma figa. Allora, Sandro, ti giuro, in FM sembrava essere Sandro, sembrava. Da come ci va? Mi trovato a sentire una M, cazzo. Brava. Ciao Antonio, saluto anche a te, poi c'è un altro più basso, lo spagnolo c'è. Oh, americano, sì. Va bene Antonio, ciao Antonio Bombo, buonasera, e ben ascoltato. Va bene Antonio, quel motore nuovo. Il motore nuovo è perfetto, il problema è che c'è qualcosa nel motorino, adesso ovviamente lo cambio, lo metto l'altro, perché gira e gira da una parte, dall'altra fa come se andate in coppa, capito? Adesso ovviamente lo provo a cambiare, lo vediamo un pochino cosa mi dice. Allora fuori nuovo fiammante. È positivo, sai che quando gira ghiaccio, ti giro la bordi di un capo. Ah, ma che calma, ti sono preso schiattare, lo sai, non è possibile. Se mi sembra di essere il verbo di tutti, cazzo, cerca di mettere di ingravidare quel pollo, quella gallina, così facciamo le uova e le vendiamo. Non c'è problema, ne abbiamo anche un altro, quasi la collezione. Allora noi facciamo la collezione di motori a casa. Ti faccio un'idea. E appunto Maghisso, no, se lo vuoi direttamente compare il gioco, così gli ha detto due baci. No, quello è una cazzata, te l'ho detto, non lo nuovo, non l'ha girato semmai, se no un paio d'ore, capito? Quello tolto e basta, quello lì è nuovo, c'è qualche problema, ma è arrivato così e sono andato a farlo cambiare in garanzia e non ne avevo altro. E allora niente, me lo sono tenuto, capito? Positivo, va bene. Vabbè, ma adesso se lo metto a posto Antonello. Antonio Bombo, no. sono pure solo. Chi è che stava parlando? Passo in basso, lo sento, chi è? Tonio Popolo. Ciao Anto, se mi stai ascoltando. Ti accoppio, basso, basso, basso. No, non so se mi senti tu. C'è la cane cingomma. Io c'ho sempre la stessa antenna, qua si è dall'impatto, ma non lo sento. È basso del radio, si stanno soprammaturando i tedeschi. Non sono tedeschi, sono americani, insomma. Avanti a tu. A 2 minuti che cambio radio, ove se mi intende. Ma cambia radio, vogliamo lo ti sentiamo. Sono al computer. Caccia di quella cosa che ti ho detto, Massimiliano. Ancora niente? No, non ho fatto niente, non vuoi. Quella cosa, non mi fido. Sto guardando. Ce n'è uno, 1915 euro, ma non mi pare un braccio. Bisogna rimanere su quel sistema. Mi pare un bel, cioè, mi pare un bel, sarà il prezzo suo, ma... No, intorno ai 1500, 1600. Se no, siamo maledetti al coglione. Ma tu non sapevi usare il tavolletto? Ma non è vendita quello, già lo sai che rimane in massa. Telefona a lui e glielo chiedi. Oh, prima che io non c'ho il numero di chiamarlo. Ascoltare quel baracchino, come? Quel baracchino? Quello non l'ho messo ancora a posto, a parte non è già finale, è stato come oggi, qui c'è stato meno fusato, sto aspettando. Ti posso provare quel microfono col baracchino di Giuseppe se vuoi, ma con quello là no, con quel 200 canali non te lo posso quasi neanche ascoltare, la verità si dica. Sto cercando i finali, se da uno se dall'altro, sono andato a GBC oggi e stamattina prima di tutto, prima sono andato a uno, poi sono andato anche all'altro. Se vuoi devo sentire il microfono. Hola, mi sentite? Cos'è che ti piace quella salerta? No, non la provo, non la voglio sentire. La vetta dice bene, da come da una volta come adesso la vetta... funziona benissimo. Siamo quasi 3-4 anni, forse c'è qualcosa già che si deve prendere. Aspetta un secondo, lo collego là, così lo provo. Ah, mi sentite adesso? Sono andato, già ti ascolto io. Gaffa, è Claudio, mi sente? Ehi, Antonio, adesso sì, prima di troppo basso, tutto a posto. Ci sono questi americani che sono sempre ora, capite, c'è un po' di QRM, se no non c'è problema, già ti sento adesso. Io non ho la pena di varie, cappa, non posso soffrire, in questo è lei una grossa allucinante, vai in articolo per radioamatori, tutto pieno di portatili e tutto pieno di baracchini, vai articoli radio amatoriali, tutto pieno di baracchini e tutto pieno di portatili. Cazzo, c'è una cosa allucinante, uno schifo. Capri, ma se io vado in una cosa specifica a cercare delle radio, ma che cazzo devo andare? Capri, rosmetri, cosa mi napputa a me? Metti in articoli vari, ci sono portatili, c'è la voce portatile, mettili lì portatili, è tutto pieno di portatili. E anche la gente sempre prende la casa qua, capito? Quindi dove viene bene l'evento? Perché io stavo cercando una cosa l'altro giorno e mi è uscito un negozio di scarpe, fate un conto. Cazzo, a me è uno schifo, cioè, prima non era così. Articoli CB, radio CB e c'erano le radio CB, con tutti i rosi, i tripati, metto lì tanto quelli di qualche microfono, ma a spesso molti baracchini. Cazzo, ci vado a cercare radio o amatoriali. Radio amatoriali c'è l'HF, c'è scritto radio AM. canale in FM, K attenuato a fondo scala, là congelato. Se ce l'hai a 200 metri. Sai, Antonello, proprio qua, io in direttiva, perché il 430 questo non c'è scala in FM, no? Quindi sono entrato col 7004, e lì lo sai che c'è la direttiva ai 10 metri. Antonello, con la direttiva puntata all'altra parte, in fondo scala, perché lo prendo di fianco, e quando sei vicino non c'è niente da fare. Ma qua inculato, attenuato a fondo scala, l'ago tutto incollato, e con l'attenuatore si è dito. E insomma, quelli che c'è lui già sono alti, di più è sempre una direttiva, magari c'è i bracci puntati verso di te. Insomma, mi prendo questo Massimiliano, 8.560 euro. Yeah, do I? che cos'è davvero. Ehi, non mi scelto via della casa del riposo. ci voleva mettere RAI 1, RAI 3, RAI 4. Sono tutti in volta, sono RAI 1, RAI 2, RAI 3, RAI US. Dopodiché dal canale 28 in poi partono tutti in UHF. Rega, volevo niente, non lo sapevo. Ciao Marco Gabri. È un CB 40 canali, adesso mi ricordo, 295. C'è il come si dice, il LED dei canali che anche c'è quello bene. No, perché dalla pista siamo la va un tipo un Egg in quinto, un LMS200, non so. Il bip del microfono. Adesso ho attaccato il bip, guardi. Ecco, ecco, ecco. Questo è il saletto Eco Master. Plus. Sì. Mi piace tanto a Coso, a Massimiliano, lo vuole a casa sua, mi ha detto. Dice, è disposto a darmi anche una cassa di frutta di meloni. Esce bene, quando lo tratta esce bene. Lei ha detto, ho detto che lo vuoi a casa tua questo microfono e sei disposto a darmi una cassa di meloni. E Dio, le vediamo anche due casse di meloni. Barrato. Ok, non so che gli esce bene questo, cioè la verità esce molto meglio nel coso nel 2009, perché ci è andata molto meglio come baracchino. Questo fa schifo, però è perfetto come microfono, è un buon microfono, la verità. Gianni, c'è ancora? Te l'abbiamo lasciato in bianco un bel po' di tempo. C'è ma è dromiddu, così è. Ancora in macchina, sì. Sì, ancora in macchina sono. Mi sa che devono qui stanotte. Allora, non un attimo vengo io la qua fresca. Il gavettone di acqua gelida. Ascolta, la direttiva non mi ascolti. Io? Ti ascolto. Segnale non lo so, e qua non riesco a vedere. Se no, è qua, la verità. Io so con la direttiva in questo momento. Sto bene. Come sto uscendo? Puntata a Monte Oro, per sapere. È appena un pochino telefonica la modulazione, no? E segnale 9.5, poco più di 9.5. Ah, d'accordo, già va bene, allora. Si è portato proprio a Monte Oro, la verità, sei ricca. Si sente molto bene. Sì, io vi saluto. Certo, che ne fa quattro, buonanotte a tutti e ci sentiamo le prossime. Buonanotte di nuovo, Massimiliano vi ha salutato. Ciao Massimiliano, ci sentiamo, buonanotte, saluto il mio stato, che ho vinto la parte mia. Io mi sono stanotte. Adesso che mi attendo a Marco, così mi senti migliore. Con l'altra lì, 9.25 mi sembra. Giovanni? E ecco, se mi sono stanco. Ma le immagini. Ascolta, ti volevo dire, quel famoso apparato che avevi preso, il TT, quello 40 canali, come andava? Bene, andava. Male? Bene, bene. Ah, ok. No, perché non ne vedo tanti in giro in vendita. Ne vedo pochi. Infatti, come adesso, meglio o peggio? Un bonbon. Visto, ecco, detto io. Perché la gente, Marconi, quando vuole la roba che sta posto, pensa che sia di quella che non serve. Avete parlato in due, me l'avete detto? Ho detto che quel TT, la gente, pensa che non funzioni bene perché costa di meno degli altri, ma in effetti funziona bene. Positivo. Beh, Marco, tu come senti, meglio o peggio? Meglio, molto meglio. Segnale forte, radio forte. Questa è la stessa cosa, non salta. Questo è lo special 40, CM40. Aggiù capito. Ciao, io vi saluto da parte di tutti i baracchini, questo è quello che ho qui, è nella buona anima del 680, figurati. Il 3009 mi sta sempre tentando, quasi quasi. 3009 è FT, quello ha tutti i componenti classici, capito? non ha SMD e tutti i componenti classici, perciò volevo salvare un pezzo di storia, perché poi non ne fanno più, di quelli. Così quanti? Come già? Ho detto compagno circuito a quarti. No, non a quarti, PLL. Però siccome tutti gli apparati con 200-400 canali ormai sono tutti in SMD, no? Quello invece è l'unico che ha i componenti classici, come una volta. Quindi te non ti preoccupare, si può anche modificare, ma ci vuole un ponte per andare dal 28 al 32, che adesso io non mi ricordo più, l'avete avevo staccato una volta, io non me la chiedo di quelli lì, e mi sono pentito di avermelo segnato, c'era un ponte, si fa l'integrato PLL, e parte dai 27 e 315 fino ai 32 MHz, figurati. No, quello quando me lo danno fa i 10, gli 11 e i 12 metri. Naturalmente non li uso, uso solo gli 11 metri, però sui 28 MHz mi piace fare ascolto, capito? Perché in questo periodo c'è un'attività abbastanza intensa. Poi è bello, tipo retro, tutto cromato, eccetera. E anche io il fratello cromato, la verità, l'ho conservato. Mi ha staccato il fratello cromato, ci ho messo il fratello nero per farlo monovato. Adesso quando ritiro l'apparecchio che ho prestato a un amico, mi metto il fratello cromato e mi faccio un nuovo il 3009 originale. E poi ho capito, io stavo piangendo miseria perché non ho i soldi per il cavo, no, 100 euro. Invece mi ce li ho, io dito dito ce li ho, però me li voglio impiegare per quell'apparato lì, capito? E vabbè, non ti preoccupare, ci si trova il cavo a poco prezzo, anche gratis, magari qualcuno che si arriva, secondo te qualche fiume ci sono, stanza lì. E non sono fatto niente delle baracchine dell'antenna, se tu vai in vedo che è su c'è la mantova che stai vivendo, ho pensato che il cavo che stai scendendo giù, tutto il residuo 112, figurati. Ma se tieni dei condomini, non sono neanche le inerti che nessuno c'è più, ce l'hai su usa più, ti potevi l'antenna anche il cavo, e ce l'hai gratis. Ma sono vecchi di anni. Che c'entra, già funzionano quelle antenne, ti credo non funzioni. Certo, non ci volevo fare perché si via antenna a cavo, tanto lì buttata mi si macchia, già lo sai. Lo so. Aspetta, chi c'era ancora qua? Bombolino, ci sei? Oppure anche l'altro amico che sta entrando da un tampone, avanti. Ho perso i nomi, adesso non mi ricordo. Poi ha chiuso Gianni, poi non so chi c'è rimasto, la verità, Claudio l'ha chiuso, avanti con questo qualcuno che ci abbiamo dimenticato. Ehi, che stavo parlando con te, chi è? Avanti chi è? Avanti chi è, adesso non c'è più, l'abbiamo ignorato. Luglia, caspita, le 11 e mezza passate sono. L'ho visto, c'è un certo problema per quella. Gianrigo, aspetta. Faccio più di mai, no? Ah, Gianni, tu sai che mi cavi il nervo. Faccio più di mai, manco era Bibi. C'era di nuovo Falcone a Daoshan, è la seconda volta che lo vedo. Sembra un disperato, non sa so dove andare, va avanti e indietro. Sei tu che lo attiri. Sì, devi vedere, sembra un'anima in pace, e lo credo perché non c'ha più baracchino al tempo, baracchino era la sua vita. Ti faccio un ascolto di frequenze maniaco, vero? Di frequenze maniaco, bella. Ce l'ha anche per la frequenza, aspetta, vediamo un pochettino. Tranquillo. No. Smettila di fare il coglione. E però, non, cazzo, stai a basso, non capisco nulla. Mi avevo due mazzini, figurati, mentre si siete trovati, cosa avete stavolta? Antonio, è finita, ragazzi. Sì, no, non ne mandare. Proprio non è il giorno che si può fare, vedrai. Controlla, controlla. No, no, non vado. Non vado, no. E mi si sta meglio qua, è più alto, mi ascoltano meglio, eccetera. Comunque vedo che qua c'è un po' di movimento. Ci sono delle greffe dietro, con tre macchine, ma sono tranquilli. Devo di trovare un ambiente peggiore, è la verità. Ah, positivo. Se non cambi mai, proprio. Aspetta, sceso. Cosa ti è sceso? Il pistone? E beh, fa l'altro così, lo stai ascoltando. C'è il computer che fa un quarto e mezzo a coso, cazzo. Ora di capo che termina il nove. A te lo sto spegnendo. Purtroppo, Antonio, tutte queste cose elettriche fanno un casino. Le lampadine nuove fanno casino, i computer fanno casino. E addirittura queste lampadine bianche che hanno appena messo nelle strade fanno casino. Cioè adesso c'è molta roba che disturba i baracchini e anche gli HF, che una volta non c'era, capito? Una volta non c'era nulla tutta questa roba qui. Stava meglio quando si stava peggio là. Io lo so. Io ho capito, lo uso ogni tanto, ma lo uso sempre, la verità. Siccome ho preso poi due o tre appuntamenti con un paio di brasiliane e devono venire qua stasera a trovarmi. Ah, ti piacciono le brasiliane? Visto, ma c'ha di sogno. Minchia che sticchio! Ma cioè, sono certe che sono buone veramente, guarda, in fotografia. Mi invitate a venire qui. Ma sono vere donne o... Non è che trovi la sorpresa che poi c'ha il battacchio in mezzo alle gambe? E infatti mi guardano i blamme, basta una volta. Poi ti prendono, sul letto, ui ui. Sarai scemo, no? Gianni, riprendi un attimino, fammi riposare dalla parlata, che sono senza acqua, senza aver mangiato, sto deperendo praticamente in questa macchina. Gianni, si è addormentato. Forse Gianni si è un pochino assopito. Gianni, qua ci sono, mi sto ascoltando. Riprendi di qualcosa, che io non so più cosa dire, mi sa che ce ne andiamo anche a dormire. Oh, già. No, la mistura c'è più macchiato. Già. Quella ragazza l'hanno trovato morta, è parente di Simona, lo sai. Quale? Quella di Monsano, per esattezza. Ah, vero. Eia, mi ha telefonato la sorella oggi. E la cugina della sorella. La cugina anche sua? Eia, questa è una buona per loro, perché si ricarica, è una ragazza veramente bella. Ha trovato dentro di un dirupo, cazzo. Come è tu stasera? Eia, stasera, un'ora e mezzo fa l'hanno detto. La news 24. Mi ha già detto che si muoce, bubù. Andare. Vabbè, io vi saluto perché me ne vado a letto. Ciao Marcolino, ciao Alice, tutti gli altri ascoltoni, che ce ne sono un bel. Buonanotte a tutti, questi per me esecutivi. Ok, ciao, buonanotte. Ci sentiamo alle prossime. Avanti, Antonè. Perché ci sentiamo le prossime salutori. Ah, adesso siamo soli, io e te. Sì, così facciamo l'amore con conto. Sì, ti ricordi quella pubblicità. Fai l'amore con conto. Ti ricordi quando eravamo in tre, io e tu. Come si chiamava? Fanculo, mi viene in mente il nome adesso. Falcone. Ah, cazzo Falcone, oh. Non ci non scrivi manco tu addirittura. Chi era? Creventino. Clementina. Clementina, Cesso, Paola, quanto tempo è passato, mamma mia, quanto tempo, mi sembra un'eternità. Adesso sarà sposata con figli, con nipoti. Dio voglia, professoressa adesso, già lo sai. Professoressa di retorica lì al... all'industriale. Ah sì, e tu l'hai più vista? Non l'ho più vista. È venuta a casa un giorno, qui ti parlo di dopo 5 anni che era sparita da Baracchino. Mi ha chiesto libro di tonica, mi ha detto che lei è diventata professoressa di ruolo di elettronica lì all'industriale. Figurati. Si chiama Paola Concuni, figurati, mi ricordo come il nome e cognome. Eia, è vero, Conconi. E come si tiene bene? Ma penso che sia buona ancora, era per la più ciristi quando l'ho vista io. Sì, probabile. C'è la mia età. Che si tenga ancora bene, dai. Quei tempi però, guarda, mamma mia, quanta gente c'era in radio. E quante donne entravano nuove, allora ti avvoltoi andando subito nel canale dove c'era la donna. Ma è bello, tutte attaccate su 14, no? Quello lo posso anche dire, tutte di qua venivano su canale 14 a cercare a me come maniaco. Adesso sono tutte in chat, ecco, vedi, le chat. Io in radio, come dire, mi è venuta un po' la passione della radio tempo fa per comunicare magari con gli altri, però la chat non mi piace, non mi piace, non mi piace, non lo so perché, è diversa dal baracchino. Minchia, lo so, è un casino, c'ho scritto anch'io, basta che mi cerchi a me la password del Pomponio, già lo sai il nome e cognome mio. Ma che c'entra? Volevi chattare, per dire, io sono messo su Facebook e vabbè, non è che c'entro quasi mai, però c'è la fotografia è brutta e quindi poi ci sono tutti quelli appresso, mamma mia. No, io Facebook non ne ho mai messo, lo detesto, e poi per il tipo di attività che io facevo al computer non dovevo avere... Dovevo essere anonimo, anonimo del tutto, in tutti i sensi. Qui c'è tranquilla, anche io chattavo. A volte mi usciva che mi chiamava qualcuno in chat, abbiamo risponderlo, ma non mi sono rotto le palle. Era aperto, non risponde più a nessuno. No, io faccio altre attività al computer. E poi è finita la pacchia. L'età dell'oro è stata dal 98 al 2003, mi pare. E poi più niente. Come mai? Perché la gente si è messa antivirus, anti-spyware, anti-tutto, e viene difficile intrufolarsi, capito? Per quello, eh. Bei tempi, anche lì, bei tempi. Oh, mi ricordo che ero entrato, tra virgolette, abusivamente in questo sito di tesine, no? Per gli studi. All'epoca non c'era ancora il reato di accesso abusivo al sistema informatico, però il senso era quello. Avevo fregato meglio i tesini e poi li avevo date all'esame ad altre persone. E ti sei fatto il suo? Barbato. No, mai farlo per soldi, mai. C'è il dolo lì, io le regalavo, non me ne fregava niente. E poi era il gusto di farlo, capito? Già, va bene. Non c'ho segnale, vai a fanculo, grazie. Sul wifi è gratis, non faccio segnale qua. Il wifi gratis di un altro, quello sì che si chiama accesso abusivo. Ah no, nemmeno, no, non è accesso abusivo, tu stai semplicemente sfruttando un'altra cosa però pagata ad altri. Antonio? Sì, sono qua, dimmi. Allora, di solito si usano i wifi liberi, no? Però nel caso che fossero protetti da password, c'è un programma che tu praticamente lo avvii, ti cerchi una connessione wireless occupata, quel programma praticamente fiuta la connessione che sta facendo chi è connesso a quella cosa e dopo un po' di tempo riesci ad avere la password e quindi entrare anche tu anche se c'è la password. Io vabbè, non c'è bisogno di fare quello, io inizio a seguirti. Tutto quanto. Vado su in qualsiasi posto con quello di qua vicino, con quello là, capito? Atto compreso, già ce n'è tanti di strumentini interessanti, solo che sono a riga di comando e a me mi sta un po' sulle balle la riga di comando. Potevano fargli un'interfaccia grafica e sarebbe stato meglio. E vabbè, mi sembra che ci fa quella, ma mancata l'altra. Voglio di fatti il corso. Guarda il tuo sto computer, cazzo. Con l'attività limitata, forse dovrebbe essere connessione, dovrebbe essere grande seggio. Ci mantenino io. Io comincio a prepararmi qua, che vado verso casa, che è un po' tardi. Ok, vai verso casa, no, c'è problema. Ecco qua, sono in movimento, perché adesso... comincio a farci un po' tardi, comincio a rientrare. Adesso vedo il segnale muoversi. E infatti lo vedo. Miri, qui ho attaccato l'apparato alla plancia della macchina. Qua presente c'è il cassetto col pulsante di apertura.